tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2022, info@siciliolibertaria.it. Rilanciare l'anticlericalismo, avanti con l'ateismo, lotta dura per la laicità delle istituzioni. Iniziamo da Galileo, dalla Repubblica del 3 aprile, pagina 37. Storia di una poesia perduta, quando Galileo vide la supernova. Nel 1604, ricordiamo Giordano Bruno era stato arso vivo solo 4 anni prima, un astro misterioso attraversò il cielo. Oggi sappiamo di cosa si trattava. Ma già il grande scienziato pisano capì che il fenomeno smentiva l'idea aristotelica di stelle fisse e lo scrisse anche in versi. Ricordiamo, nel testo si segnala come il dialogo compare nell'edizione nazionale delle opere di Galileo, pubblicata in 20 volumi nel 1900. Come mai questo ritardo di quasi 4 secoli dalla morte di Galileo? Per colpa dei preti, per colpa della Chiesa, perché lui era un eretico scomunicato, eccetera, eccetera. Passiamo ora a Darwin, dal Corriere della Sera del 6 aprile. Parliamo appunto di evoluzionismo, no al creazionismo, che sono tutte superstizioni dei preti. Darwin e il mistero del taccuino ritrovato. Sparito 22 anni fa, è stato riconsegnato in una busta con la scritta Buona Pasqua. Contiene uno schizzo dell'albero della vita. Darwinismo, il termine indica la teoria evoluzionistica, sviluppata dal naturalista inglese Charles Darwin. Noi discendiamo da un antenato comune con le scimmie. E interessante, ecco, nella stessa pagina, ecco Ea Rendel, la stella più lontana, è nata 12,9 miliardi di anni fa. Se, come dicono i preti, tutto è stato creato per l'uomo, no? Allora come mai questo presunto Dio avrebbe dovuto creare una stella lontana 12 miliardi di anni da noi? Passiamo ai crocifissi in tribunale, a Cesare quel che è di Cesare. Da estense.com, trovato in internet, è un vecchio articolo sulla polemica sui crocifissi nei tribunali. Questo avvocato coraggioso, Edoardo Nannetti, ha richiamato, ha rivendicato i diritti di noi laici a non vedere i simboli dei preti nei tribunali. Disgrazie clericali. Monza, il vento fa cadere una croce dal Duomo, sfiorato un bambino che è finito all'ospedale. Disgrazie clericali, suora travolta e uccisa da un'auto sull'Aurelia nell'Imperiese, attraversava sulle strisce pedonali, ma purtroppo le sue preghiere non sono servite a nulla, un disgraziato l'ha assassinata. Da Il Manifesto, alias domenica 10 aprile, pagina 7, perché la commedia ha trasformato la lingua che parliamo. E c'è un'illustrazione del famoso frate traditore, il romagnolo frate Alberigo, messo tra i traditori degli ospiti. Il perfido frate tese un agguato ai suoi familiari per problemi di eredità, li fece uccidere dai suoi scagnozzi. Guardatevi dai frati. Beve anticalcare durante la messa, prete finisce in ospedale, pare sia stato avvelenato dal viceparroco che gli aveva messo l'anticalcare invece del vino da messa. Il viceparroco di Châtillon in Valle d'Aosta ha bevuto per sbaglio, oppure per dolo, del Viacal durante la messa di domenica scorsa, rischiando la vita. Il veleno nella storia della Chiesa. A l'École Française de Rome, che si trova a pochi passi da Piazza Campo dei Fiori, dove Giordano Bruno fu bruciato vivo il 17 febbraio 1600, c'è un convegno sulla decolonizzazione di esperienza missionaria fra religione e politica, il caso portoghese, e quindi ci potrebbero essere dei fatti riferiti inerenti ai crimini dei missionari. È possibile che emergano misfatti clericali, quindi teniamo d'occhio questo convegno, chi può andare. Da ilmessaggero.it, venerdì 4 aprile, no, venerdì 1 aprile 2022, l'ex parroco di Palestrina, Don Antonello Sio, di 44 anni, è stato condannato a 1 anno, 5 mesi e 10 giorni al pagamento delle spese processuali per aver avuto un rapporto sessuale con un minorenne, abusando dei poteri connessi alla sua posizione sacerdote e padre spirituale, i soliti preti pedofili. Dalle mie ricerche su internet, cosa è saltato fuori? 4 ottobre 2021, Vive la France e la bella suorina scappò col capitano francese. Parliamo dell'invasione napoleonica dell'Italia meridionale, dove i soldati, gli ufficiali venivano collocati nei conventi, dove si innamoravano delle suore e fuggivano con loro. Molto bene, molto bene. La chiesa maschilista, il dirigente presentatore di Rai Storia Paolo Mieli, no? Canale 54, parla del libro Eretiche, il mulino. Il saggio in cui la teologa Adriana Valerio ricostruisce la lunga vicenda delle esperienze femminili bollate come devianti dal magistero ecclesiastico. Troppe donne condannate o diffamate per aver espresso idee innovative. E c'è anche un'immagine di donne bruciate, insomma, di donne torturate, insomma, la Chiesa, nel mio libro La Chiesa che offende, appunto offendeva le donne, ma anche le incarcerava, le torturava, le bruciava. Qui nel nord Italia, a Como, a Milano, in Valcamonica, in Liguria, a Triora, furono bruciate tantissime suore, streghe. Polemica nel milanese, striscione clerico fascista al battesimo di due bambine, dal Corriere della Sera del 6 aprile. Il clerico fascismo, sempre attivo. La Chiesa è sempre stata una fucina di fascisti. Preseminario San Pio X, il processo è stato fatto alla vittima. Da Rete l'abuso, processo penale a carico di Monsignor Enrico Radice e Don Gabriele Martinelli si è concluso con una sentenza, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine pare siano stati assolti. Ex sacerdote cattolico condannato per aver rilasciato false dichiarazioni in relazione a un'indagine sugli abusi sessuali della Chiesa. Siamo in America, a Filadelfia. Questo Don Robert Brennan, 83 anni, né da giovane ne ha fatte di tutti i colori. Da Rete l'abuso del 10 aprile. Sempre sui preti pedofili, Italia, nelle stime è il primo paese in Europa per gli abusi del clero su minori. Doppia la Polonia al secondo posto. I seguenti dati riflettono i livelli stimati, eccetera, eccetera. Insomma, il 2-5% dei preti sono pedofili. In conclusione, dal piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale scritto al sottoscritto, edito dalla Fiaccola Ragusa, qualche termine anticlericale: monarchia assoluta pontificia e quella vaticana con pretese di universalità e affetta da incolmabile arcaicità di valori, di simboli e di riti, in quanto rivolta quasi solo all'immediata rappresentazione della propria presunta divinità regale. Monarchia pretesca, lo è il papato, basato sul potere assoluto di un prete vecchio e spesso decrepito. Mondo laico marxista. Indicava quell'insieme di intellettuali della sinistra nelle più varie espressioni che si rivoltavano contro la censura di matrice bigotto clericale, soprattutto cinematografica, che calpestava la libertà di espressione soprattutto negli anni 50, 60, 70 in Italia. Da Tatti Sanguinetti, Italia Taglia, Editori Associati, 1999. Montatura clericale. Fenomeno truffaldino che si ripresenta periodicamente nella storia della Chiesa, ad esempio lo furono i falsi decretali dello pseudo Isidoro, da Karl Deschnen, Storia criminale del cristianesimo, volume 5. Moralismo ipocrita. è quello dei più ottusi fanatici cattolici, in quanto essi stessi non praticano quello che predicano. Natale, giorno speciale, consacrato all'ingordigia, ubriachezza e alla noia generale. Nefandezze etiche sono quelle contenute in certi passi biblici, come quelli in cui si auspica lo sterminio dei Filistei. Nemico principale della rivoluzione italiana è il papato, a causa delle persecuzioni sanguinose attuate contro i patrioti risorgimentali, ma anche per il contenuto reazionario del suo catechismo. Neoclericalismo non si esplica più con le note sadiche torture inquisitoriali, ma con la criminale campagna contro la contraccezione e altre nefandezze pretesche. Da Paolo Bonetti, Il Purgatorio dei Laici, critica del neoclericalismo, edizioni Dedalo, Bari 2008. Benissimo, saluti, alla prossima puntata. Tutti i